Rock Wave Live. Eccoci qua, buonasera a tutti, Rockaway Live 22.05 è in perfetto orario, partiamo con la solita puntata del mercoledì, stasera sono molto contento, abbiamo i Flower, che bello, i fiori praticamente, vengono da Fiorenzola d'Adda, giù di lì. Provincia di Piacenza. Piacenza, e sono molto contento, sono venuti di corsa, giustamente, perché il live ci fa sempre di corsa, proporre la loro musica. State bene? Sì, stiamo bene. Ecco, puoi presentare i tuoi colleghi, visto che ci sei? Va bene, io sono Stefano. Suoni la chitarra. Esatto, Alessandro è il nostro cantante e bassista. Il vocalist, esatto. Bassista, e abbiamo poi anche il tastierista. E poi c'è Marco che è la tastiera e Matteo che è rimasto a casa. E il batterista, lo salutiamo, esattamente. Un gruppo giovane, musica interessante, molto Brit secondo molti. Esatto, noi facciamo musica principalmente inglese, ci piacciono gli anni 90 proprio. Quindi... Perché siete giovanissimi, perché vi piacciono gli anni 90. Sì. Salutiamo anche il nostro regista Marco Borgato che stasera guida lui le macchine praticamente. E cominciamo a capire da dove siete nati musicalmente, visto che sei te l'autore di tutto. Diciamo che bene o male le influenze sono importanti quando si scrive un pezzo. E nel nostro caso comunque siamo tutti influenzati dalla musica che arriva dall'Inghilterra, abbiamo ascoltato molte cose anche molte cose inglesi, brit inglese, e da lì abbiamo deciso di prendere questo percorso e riprendere in mano un po' la musica degli anni 90 e suonarla un po' a modo nostro. Ma l'idea di partire la band, tu che sei Stefano, Steve Flower, cinque anni fa hai avuto l'idea di formare la band, te o qualche altro? No, io e Alessandro. Tu e Alessandro, che è il vocalista. Eravamo i primi, eravamo ai tempi, abbiamo deciso, già suonavamo insieme, abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso e quindi di passare a far nascere i Flowers. E una cosa interessante è che fate pezzi vostri, assolutamente vostri, qualche cover ci vuole, ho sentito una cover che poi sveleremo di chi, ma un po'... Mi ha fatto piacere perché avete cambiato i connotati di questa cover e sono molto contento perché io non sono molto nel DNA di questo musicista, bravissimo quando faceva certe cose, un po' meno quando vendeva i milioni di dischi, ma lasciamo perdere, parleremo a tempo debito. Allora praticamente l'idea è partita così, Stefano, lentamente si è sviluppato il discorso e poi avete deciso, eravate in tre, poi è arrivato la new entry che è il nostro tastierista, il nostro Marco, il nostro Marco, back in town, c'è una bella maglietta, fammi vedere, molto inglese, vedi caso, quasi inglese. Quindi l'idea è partita così, si è sviluppata poi era un punto in cui ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto non è ora di registrare un disco. Bello quello, non è ora di registrare un disco, ma è difficile registrare un disco per un gruppo emergente, cosa dici? Avete trovato un'etichetta nuova, un'etichetta rampante, un'etichetta che vuole fare le cose in un certo tipo, vero? Ci ha aiutato in questo duro lavoro che si chiama registrare disco. È un duro. Ragazzi, bisogna sottolineare una cosa: non è facile registrare un disco, c'è passione, forza, volontà, e sofferenza e tanti soldi da spendere. quello lasciamo perdere. C'è tanta sofferenza. Sì. Ci vuole molta pazienza soprattutto. Molta pazienza. Si passano tante ore in studio, però è divertente, si crea un'atmosfera, si sta insieme. Alla fine essere in uno studio è come essere in vacanza in quel momento lì, no? E lì, quella è la tua spiaggia. Quindi tu sei in spiaggia e lì ti diverti. Anche se la musica vostra non è... qualche potrebbe essere anche da spiaggia in alcuni momenti, nel senso positivo del termine, non negativo. Sì. Perché è molto solare, molto colorata, possiamo dire questo. Sei d'accordo? Sì, Beh, infatti noi abbiamo deciso proprio... La scelta è stata... Abbiamo più pezzi, abbiamo scelto 10 e abbiamo deciso di non fare neanche un pezzo lento. Perché noi vogliamo dare questa atmosfera da party. Tu metti sul disco 35 minuti... Veloce, una cosa veloce. E ti diverti. Sembra un disco punk, non è un disco punk, no, 35 minuti, molto veloce, tac, così. Abbiamo proprio deciso così, noi concepiamo anche i live, li concepiamo proprio come una festa, quindi ci piace vedere la gente abbracciata che salta, che canta, no? Che ci si vuole tutti bene in quel momento. Anche a proposito di questo, molti anni fa, si parla di molti anni fa, voi avete un nome, si chiama Flower, ve l'hanno già detto in altre radio hanno citato, dobbiamo citare Flower, era una raccolta, una grande raccolta per il mercato americano dei Rolling Stone, era una raccolta, non disco, una raccolta ufficiale, ma una raccolta. E loro saltavano molto, facevano saltare molto e fanno saltare ancora, sono 50 anni adesso, si sono fondati, escono con un grande battage pubblicitario, i fortunatissimi che hanno visto il concerto a Parigi, i fortunatissimi improvvisamente sono apparsi, un club e hanno cominciato a suonare. Voi non c'entrate niente con i Rolling, perché non voi so amate i Beatles. Non so neanche se arriveremo alla loro età con le nostre gambe. Perché no? Perché no? Jagan ha Charles Watt, cos'ha? Quasi 70, più di 70 anni, vero Charles Watt, Marco? Sì, secondo me sì. No. Vabbè, ha più di 70 anni, quindi non sono arrivati, sono tanti anni che suona. L'anima no? rock and roll. Che voi avete l'anima rock and roll, perché no? Sì, rock and roll, infatti, alla base noi speriamo fra 50 anni di poter essere ancora. Perché no? Come no? Io ve lo auguro assolutamente. Apriamo la finestra, sentiamo il primo pezzo. Che primo pezzo, che pezzo avete scelto dal vostro album? Si chiama Flower l'album. Il primo pezzo è... L'album non si chiama Flower, è un concept album. Lo puoi dire il titolo dell'album? Sì, è Mona Lisa Store. Jim Morrison c'entra qualcosa su questo? Jim Morrison c'entra più che altro nel nostro modo di concepire le cose. Nel nostro modo di concepire le cose, sicuramente lui è un buon ispiratore. Mentre Mona Lisa Store nasce dal fatto di immaginarsi di entrare in questo negozio dove tu puoi trovare diverse forme, ma sempre il quadro di Mona Lisa in giro per il negozio. E quando tu cammini all'interno del negozio, sembra che con lo sguardo ti osservi. È coraggioso citare Mona Lisa, quindi è una cosa sublime, una cosa di grande valore, di grande fascino. Vabbè, ovviamente è uno dei capolavori. Possiamo dire il capolavoro, il capolavoro italiano. Chi è che non conosce Mona Lisa? Lo conoscono tutti, chiaramente. E quindi niente, da lì sono nati questi 10 pezzi descrittivi, come se Mona Lisa descrivesse 10 situazioni. Bene, adesso apriamo con la prima situazione che abbiamo scelto per far sentire il disco. Okay. Cosa hai scelto allora? Country Shop. Che è il singolo futuro, possiamo il dire. Il singolo futuro. Adesso lo sentiamo e poi ne parliamo, ok? Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito Country Shop, il futuro singolo. Però c'è importante, c'è una cosa importante, soprattutto la chitarra. Qua la chitarra ha un certo fascino, vedo Stefano. Dimmi che, da dove parte la chitarra, questo giro che abbiamo sentito, molto rockabilly. Vi do già un'ispirazione, cari ascoltatori, rockabilly. Questa chitarra qua è la chitarra di Andy, degli Hormonauts, adesso... Personaggio straordinario, anche dal punto di vista visivo. Decisamente un po' così, in senso positivo, assolutamente sì, positivo. Sì, sì. E adesso suona nel Rock and Roll Kamikaze. Niente, abbiamo avuto la possibilità di fare questa collaborazione con lui. È stata una persona molto alla mano, è stato molto disponibile, ha partecipato volentieri e poi ha messo questo tocco in più alla canzone, che senza questo valeva un quarto forse. Adesso vale di più, allora. Adesso vale molto, molto di più. Molto di più. Perché l'idea del giro è stata sua praticamente. Sì, sì, sì. Assolutamente. Noi praticamente abbiamo fatto tutta la base, quindi il tempo, la ritmica, la chitarra, così, ma questa chitarra aggiuntiva molto rockabilly. Molto, assolutamente molto rockabilly. È stata tutta... Tu mi dicevi che il pezzo l'ha sentito, detto, ok, va bene, per me va bene, allora non ha avuto nessun problema a partecipare. No. Ero proprio rimasto colpito dal fatto, cioè, comunque il tempo era un qualcosa che ricordava anche quello che faceva lui. Sì, certamente. Quindi ha partecipato molto volentieri alla cosa. Io ricordo quel giorno che è venuto qua un po' di tempo fa, era vestito in una certa maniera, come voi potete immaginare, un bel cappello all'americano, un bel cappello del cowboy. Si è seduto qua e detto, ok ragazzi, cominciamo, è cominciato, ma senza nessun problema, ha cominciato a suonare, bellissimo, infatti, davvero professionista. Ma infatti devo dire, non so se è perché... scozzese, però per quello che ben scozzese, però rispetto un a ottimo... molti italiani, rispetto a molti musicisti italiani, ha questa cosa che lui non se la tira, quindi no, lui esattamente viene lì, non se la tira, viene lì e tranquillamente facciamo quello che vuoi. Sì, sì, no? Sì, sì, è vero, era proprio così. Mi ricordo quando è venuto qua, era fisicamente a posto, nonostante certi trascorsi che ha avuto, era fisicamente a posto e ha dato un'ottima collaborazione a voi. E questo è il singolo futuro, è un bel pezzo di lancio, anche se non è stato lanciato il disco con questo, però potrebbe essere un ulteriore lancio. Certo, no, beh, ovviamente diciamo eravamo indecisi quando quando c'era da scegliere quale singolo, con il singolo con cui presentarsi non è mai facile trovarlo. Chi l'avete scelto voi o l'ha scelto qualcun altro di fuori della band? Beh, abbiamo discusso noi assieme al produttore del disco. Che è il produttore del disco? Cristiano Sanzeri. Perfetto. Che è colui che ha anche registrato il nostro disco, mixato il nostro disco. Quindi il fonico, ha fatto tutto. Esatto. E assieme alla nostra etichetta e ufficio stampa. Ah, quindi proprio globalmente. Sì, abbiamo sentito tutti, ognuno il suo parere e poi abbiamo deciso di fare democraticamente così. Tutti hanno deciso questo pezzo. Esatto. Allora vuol dire che era il giusto pezzo per essere lanciato nel futuro. Però ovviamente il secondo posto era Country Shop, che prossimamente dovremo per questo forza. Sarà quel pezzo futuro. Quell'altro invece è già uscito. Adesso cosa sentiamo musicalmente? Quindi cominciamo, apriamo la finestra del live vero e proprio. Ok, allora sentiamo Four in a Row. È una canzone che parla di quattro ragazze. Quattro ragazze, perfetto. E di questo ragazzo che una sera beve un po' troppo e non si ricorda qual è la ragazza che ha conosciuto. Quindi ha perso, cioè non quindi la sua dopo, mente è un po' così. Il giorno dopo incontra queste quattro ragazze, deve capire qual è. Però in fondo non lo soddisfa nessuno delle quattro. Ah, perfetto. Ok. Know your name, of that I'm sure. And I remember that. I know your smile, but tell me more. I wanna stay up all night long, you and I, and becoming a simple touch, two of a kind. Mary, I think you're expert on pollution, but you're talking through your head. Cheryl, if you fly off the handle, I will never make you mine. We play this game, but now I'm bored. And I remember that you hunting me like a crazy fowler. I hide my feelings from myself, half and half. Start to fix you up one by one. Sheriff, I think you're right, but I'm pollution, but I'm talking through your head. Sally, you blow the whistle on my fault and I will never remember that. Sally, you blow the whistle on my fault and I will never remember that. I'd love to tell you all my problems, but you don't have to smile. But you don't have to smile. Please let me go, or I will be late tonight. Goodbye. I really should go, I'm begging you all the time. I cry. Let me answer the phone, it could be just a friend of mine. Right. But just one moment, but now I can see the sun in the sky. Mary, I think you're right, but I'm pollution, but you're talking through your head. Sheriff, if you fly off the handle, I will never make you mine. Sheriff, you blow the whistle on my fault and I will never remember that. And I'd love to tell you all my problems, but you don't have to smile. But you don't have to smile. Ok, abbiamo sentito il pezzo. Allora, Alex era ben messo, sei in ottima forma. Hai i baffetti un po' alla Freddie Mercury, bisogna ribadire. Però Non è del tuo ramo, assolutamente. Diciamo di no. Però siete più beatlesiani voi, c'è poco da fare. Questo è un pezzo che secondo me ha qualcosa di beatlesiano. Non so se sei d'accordo, caro nostro. Hai centrato l'obiettivo, Stefano, che hai inventato, che hai costruito. Ecco, però tu costruisci i pezzi, ma gli altri sono d'accordo nell'arrangiamento, nella modalità del pezzo, oppure ci sono delle discussioni democratiche, sempre democratiche? No, le discussioni democratiche ci devono. Siamo sotto una dittatura. Esattamente. Anche il nostro tazzista che è arrivato dopo, può parlare anche lui dopo. Chiaramente. Fra però, qualche secondo. No, comunque, meno male, l'arrangiamento poi lo si decide insieme e lo si fa anche insieme. La base la porta uno, però poi insieme la si sviluppa e il brano cresce grazie a tutti. Non è di certo solo grazie a me. Certo, hai detto una cosa giusta, cresce grazie a tutti. Ecco, sì. In questo momento l'avete arrangiato assolutamente acustico, sì. Decisamente acustico, e l'avete rallentato, sì. È un po' più mosso nel disco, leggermente più vivace, perché è giusto, perché la musica vostra, giustamente tu hai detto prima, non c'è un brano lento, o meglio, c'è un brano pseudo lento che poi si sviluppa. Certo, però no, principalmente è proprio una questione di saltellare. Di saltellare, no? di muoversi, di movimento. Sì, proprio, sai quelle belle feste che c'erano un sembra un pezzo da party questo, sì, qua. Sì, esatto, non so, la festa di fine liceo? Esatto, eh? Io avevo, potevo anche immaginare un liceo americano, ma andiamo di un liceo inglese, dai, stavolta. Ma va bene anche ma può avere anche americano. Ci può stare. Ci può stare. Non ci offendiamo. Non vi offendete, perché è molto, anche può essere anche californiana, come qualcosa che si può respirare. La California la porta Marco. La California la porta Marco. Adesso, visto che sei davanti, e poi parlare della California secondo te in questo momento qua, che è la California che ha portato nei Flower. Ma no, porto i capelli lunghi e basta. Ah, solo per quello, sì, perché la maglietta è totalmente inglese per quello. Però non vuol dire assolutamente niente, non c'è spazio, non c'è divisione, non c'è barriera. La musica è totale, assolutamente. Sì, sì, sì, assolutamente. Quindi che cosa hai portato dentro la band, visto che sei arrivato per ultimo? Spero. Oltre le tastiere. Oltre le tastiere. Fucile, intanto. Devo stare attento a quello che dico. No, assolutamente. No, siamo tutti in libertà totale. No, beh, spero di aver portato un po' di serietà. Non a livello comportamentale, quella. A livello compositivo, dici. Sì. A livello comportamentale penso che. Sono già seri per se stessi. Sì. Non ci sarà mai. Esattamente. A livello musicale, spero di sì. Perché come hai trovato il substrato che Stefano aveva già inciso, aveva già costruito? Ti sei inserito senza nessun problema, senza nessuna difficoltà? Sì, personalmente sì, l'ho trovato comodo per l'inizio, perché giustamente avevo, non dico la pappa pronta, o quasi, so. però quasi, ecco. Beh, però dovevi avvicinarti a un genere musicale, dovevi non inventarti, dovevi metterti dentro nella parte degli altri, delle tre della band. Sì, sì, sì, devo... vorrei spiegare questa cosa. Dimmi. Che fa parte anche... A tutti quanti che ti stanno ascoltando, sì. Amici compresi, che sono lì in provincia di Piacenza. Fa parte anche della mia scelta di entrare a far parte dei Flowers. Ho trovato molta... a parte sempre la stessa serietà musicale, ma tutti e tre hanno una visione molto precisa di quello che va fatto nel pezzo. E non so, io questa capacità non ce l'ho ancora, devo cercare di apprenderla da loro. E quindi questa cosa mi ha colpito e mi piace ancora. Quindi la costruzione del pezzo era già precisa, era già formata. Sì, poi sì, tu sì. Hai dato solamente un impulso creativo, come tutti gli altri, hai sviluppato anche le tue qualità musicali e ti sei inserito perfettamente. Spero di sì. Precisamente. Cosa dici, Stefano? Sì. No, parliamo anche di quel vocalista che è un baffetto, sì, che è pronto. Baffo che preme. Baffo che preme. Sì, come, a proposito del vocalist, che hai avuto difficoltà a interpretare un pezzo, qui è interpretato a voce abbastanza, non fortissima, ma buona. Mm-hmm. Nel disco sei un po' più potente. Più potente. Non ci sono difficoltà a interpretare i pezzi di Stefano? Ma a livello, dice, acustico, a livello vocale. Beh, diciamo che tu sei anche bassista, esatto. Vittorziano, Paul McCartney in doccia, dimmi. No, beh, diciamo che alla fine suonando insieme da ormai più di 10 anni, forse, quindi lo conosco, quasi 15. Voi siete già giovanissimi, quindi vi conoscete da bambini, praticamente. Esatto, praticamente sì. Diciamo che negli anni, cioè, abbiamo imparato a conoscerci, diciamo, le potenzialità che abbiamo entrambi, quindi lui sa dove posso arrivare, io so dove può arrivare, quindi insomma. Ma lui ti costruisce, sì, il pezzo vocalmente perché tu possa interpretarlo vocalmente, oppure... c'è un'idea, poi si sviluppa insieme, quindi sì, fondamentalmente è un lavoro che facciamo insieme, no? Che la voce è fondamentale nei Flower, la voce, ovviamente, è molto importante perché dà un certo input, c'è una certa colorazione. Diciamo che, non so, io concepisco, sono molto più per la bella canzone che per la bella chitarra o la bella batteria, no? E anche quindi, Sarah Andy che ha fatto la bella chitarra, certo, assolutamente, però è un caso, dai. Però diciamo che principalmente volevamo piacere a più gente possibile, sì, e quindi non una cosa di nicchia. Si dà molta più importanza alla voce, visto che comunque bene o male lui può cantare un po' di tutto, no? Sì, può cantare un po' di tutto, sì. Mi basta solo... E può aumentare come vuole. Tu gli dici, quella è la via, e poi è lui che decide se prendere il pullman, la macchina, il treno o la bicicletta. Cosa prendi? Pullman, macchina, la bicicletta? Ah, la bicicletta, dai, siamo ecologici. Ecologici, giusto. Però la bicicletta, anche quella può andare forte. Ma sì. Beh, diciamo anche che alla fine, tra parentesi, diciamo, sono secondo me anche finiti gli anni dove dovevi sparare l'assolone di chitarra piuttosto che sembrare la band migliore al mondo, no? Oggi alla fine quello che conta, quello che pensiamo noi che conta alla fine, è la melodia. È l'insieme, l'insieme è la melodia che fanno. Sì, c'era negli anni 60 e 70, sì, c'era il solista che faceva dei grandi assoli e, esatto, era portato in quel genere. Però poi dopo le cose sono le mode, esatto, cambiano. Esatto, mode cambiano. Cambia tutto, anche se il grande assolo sembra una cosa positiva. Quello sicuramente. Però il grande assolo non deve, non è così importante. Non deve oscurare gli altri, questo è chiaro. Bene, sono le 22:29, abbiamo parlato di biciclette, ma Marco, tu che sei un grosso esperto di biciclette, benissimo. Sentiamo un altro pezzo da disco, abbiamo la traccia numero 10, mi pare. Esatto. Adesso ce la presenti un momento prima, Stefano. Ok, Foreign Time è una canzone che parla, è una canzone d'amore, ma non è la classica canzone d'amore lenta, morbida o la classica ballad. Questo è il primo singolo. È il primo singolo, esatto. Il primo singolo di cui abbiamo fatto anche un video che Bene. Si trova su YouTube. Chi era il regista di questo video? Il regista è Diego Monfredini. Fra l'altro colgo l'occasione per dire che domani sera passerà su Sky alle 20 su canale 143, se qualcuno vuol vedere il nostro video. Benissimo. Ed è una canzone fatta di piccole cose. L'amore non è per forza essere tristi, eccetera. No. Ci si sente molto spesso felici. E questo è uno dei... delle motivo. Nostre descrizioni di felicità. Quindi la sentiamo assieme e poi ne ascoltiamo ancora qualcosina, ok? Rock Wave. Rock Wave Live. For any time you smile to me, my heart is rolling like a wheel. For any time you cross the road just to be mine. For any time you wanna greet, for any time you don't believe, for any time you chase my soul and close your eyes. For any time you tell a lie, I just smile and say goodbye. Keep looking straight ahead to what we call the same old way. For any time you feel confused, and all the time you think you lose, for any time you like to fly all through the night. For any time your heart is still beating harder for your dreams, for all these times you don't know why you're not on my. For any time you come even closer, I need you to get inside of me. I keep looking straight ahead to what we call the same old way. Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Eccoci qua, abbiamo sentito il primo singolo in assoluto. Ci sono due cose da dire. Tanto è molto divertente e molto accattivante. Vedi caso, era il primo singolo. Infatti, è stata una dura scelta. E poi è stata una jam session di gruppo questo coro. Quanta gente hai trovato, Stefano? Trovato qua avete trovato nel studio. Chiunque passasse in studio, praticamente. Sì, esatto, così proprio uscivamo. Tu che sei le macchinette del caffè, potresti venire a fare un coro un attimo? E lei, ma guarda che non sono tanto brava. No, no, non preoccuparti. Entrava e boh, e facevamo. E abbiamo continuato c'è una così. Ragazza con la H, si chiama Hanna. Sì. E ti ha dato una mano, esatto. Chiaramente, nel coro. Quindi, sì. Una cosa molto divertente, molto californiana. Tra l'altro ho anche chiesto, 60. Ma che genere è? Che genere è? Ha chiesto. Gospel. Ma è stato divertente assolutamente. Sì, l'idea del coro, come è partita? Dal produttore o da voi direttamente? Diciamo che abbiamo provato, fatto molte prove diverse, no? Eravamo nel periodo in cui è uscito il disco di Noel Gallagher, il primo singolo c'aveva dentro delle trombette. E avevamo scoperto che le trombette le faceva lui con la voce, poi le avevano effettate, eccetera. No? C'era solo un trombone sottofondo. Okay. Quindi abbiamo provato anche noi a fare le trombette in studio, io e anche Cristiano, il produttore. Si è messo lì anche lui a fare le trombette. No? Nessuno non aveva la tromba dentro, no? Allora abbiamo detto: va bene, passiamo a dell'altro. Abbiamo provato di eccetera. Finché okay, poi la devi sentire. Sì, esattamente. Finché avete deciso per il coro. Esatto. E beh, è divertente. Riempie, possiamo dire così: riempie. Sì, riempie molto. Sì, e poi è molto orecchiabile. Quindi infatti i concerti di solito finisce che quella là si prosegue per un po' col pubblico. Ah bello, adesso parlatemi un momento dei live che fate. Ah, il live è tutta un'altra cosa proprio. Tanto duro nel senso ben sì, positivo. Diciamo che è molto meglio sentirsi dal vivo che da disco. Da disco siamo un po' più pop, dal vivo siamo un po' più rock. Poi abbiamo sì, hanno scritto questo, che siete molto più siete pop nel disco, nel senso positivo, pop come popolare. Ma è stata una scelta, infatti senti pochi soli hard rock. senti poche chitarre ultra cattive, no? Come mai, secondo te? Ma è stata una scelta. È stata una scelta perché comunque, come abbiamo già ripetuto prima, è proprio una scelta per dare proprio il privilegio alla voce di uscire, di fare un po' quello che vuole. E noi siamo da contorno per riempire, per accompagnare. Quindi è il nostro vocalist, è Alex che è davanti. Lui è il grande boss. Il nostro boss col baffo. Sempre col baffo, chiaramente. E quindi dà proprio l'input, dà il collegamento agli altri. Però... Come ti metti davanti agli altri o sei stessa linea? Di solito il vocalist, se vuole dare l'input, si mette davanti agli altri un po' leggermente spostati. Ma di solito siamo abbastanza lì, no? Sì, esatto. Siamo tutti vicini, batterista compreso. Però in verità è in cima alla montagna. Dimmi scusa. È in cima alla montagna, certo. Lui. Vuol dire essere in cima alla montagna, poco da fare. Quindi la voce, come abbiamo detto e ripetuto, ma è giusto dirlo, è il collegamento, la trade union a tutto quanto. Esatto, sì. E questo è un pezzo singolo che avete scelto, divertente, accattivante, una melodia, un pezzo molto melodico. Infatti è un pezzo che dal vivo prende il pubblico. Si presta al pubblico. Infatti finisce sempre con noi che proseguiamo con il la la la, perché senti il la la la del pubblico che ritorna. Quindi il pubblico l'ha imparato immediatamente. Sì, l'ha imparato molto. Diciamo che preferiamo far partecipare il pubblico piuttosto che il pubblico ci guardi e dica... Questi sono veramente originali. E guarda come suonano bene, sono originalissimi, sono proprio colti anche i testi. Madonna, invece no, cioè, noi il pubblico lo facciamo partecipare, almeno. Cioè, il pubblico non deve essere distante. Non deve essere distante, soprattutto quando esce, deve dire: cavolo, stasera veramente è stata una festa. Si è divertito, okay. Praticamente. Quindi è un happening la vostra esibizione. È proprio una bella festa. Di solito funziona così. Bene, visto che dobbiamo fare un happening, cioè una festa, perché Rock Wave Live è una festa, festa della musica, sentiamo un altro pezzo. Che pezzo avete scelto da suonare adesso? Adesso suoniamo quello in cui ha partecipato Andy, in versione acustica. Ah, benissimo. Vogliamo, non c'è Andy, sentire. Ma c'è Stefano alla chitarra, è la stessa cosa, dai. He saw me going down the high street, and he said, boy, this whole world is turning strange, 'cause he could live his life in an old age. One day he was going down the high street, and he saw man and woman dressed in different ways. Country life was back, so we could live again. Hey man, can I help you? Do you need something? What are you looking for? Texas man, what are you doing? Why are you talking to me right in our homes? Looking in one of the windows on the high street, saw that man crying thousand tears in vain. But as I touch his face, he's looking the same way. Country life is back, so we could live again. Hey man, can I help you? Do you need something? What are you looking for? Texas man, what are you doing? Why are you talking to me right in our homes? Can I get some, yeah? Can I get some, ooh? Can I get some, hey? Can I get some, ooh? Can I get some, hey? Can I get some, ooh? Can I get some, hey? Can I get some, ooh? Can I get some? bello, interessante questa versione vostra del pezzo fatto con Andy. È una versione molto loner, molto da frontiera secondo me, più che brite, mi sembra molto, molto americana. Sì, sì. Cosa dite? Può essere interpretata come molto americana. Io la vedo, la sento più che a vederla, anche a vederla, perché vi state suonando visivamente, vi vedo. Da cowboy. Da insomma. Cowboy, esatto. Non avete i capelli chiaramente, ma potete avere lo spirito da cowboy. Sì, sì, può essere. Quindi Andy vi ha portato con questo spirito. Non abbiamo i capelli, però abbiamo i baffi. Avete i baffi? Tu hai il baffo, il baffone. Se ci fosse stato il batterista, ce l'ha anche lui. Ah, c'è anche lui. Salutiamo il batterista che ci sta sicuramente ascoltando via internet. Sì, una versione da loner, da confine, a me piace identificarla così, non so. Spazia. Polverosa. Spazia. Esatto, hai detto una cosa giusta, polverosa. Polverosa. È una bella identificazione del pezzo, secondo me. Va bene, va bene. E, la vivo come la fate? Qua siamo in dimensione acustica, ragazzi. Qua siamo in dimensione acustica, infatti. Quindi, spaccate dal vivo. Poi c'abbiamo grande. Il grande batterista che... Picchia, fa rullato, picchia come un fabbro. picchia. E poi fatto cioè continuate il pezzo, si allarga considerevolmente, o lo tenete nel tempo prefissato? Lo teniamo nel tempo prefissato, ma è molto più andante. Molto più corposo. Sì, molto più corposo. C'è dietro una buona sostanza. Anche perché, come il disco, apre anche i concerti dal vivo. Questo, quindi. Ah, vedi. Quindi c'è un motivo. Sì, è proprio la canzone adatta per iniziare i concerti. E far rumore alla gente. Infatti di solito parti, 1, 2, 3, 4, e la gente, vedi che pian piano, per colpa di questo tempo così deve veloce, muoversi, no? Inizia a avvicinarsi, dice, cos'è questa cosa? Ah, si avvicinano tutti al palco, no, praticamente. Si avvicinano tutti e iniziano a muoversi, no, piano piano, e vedi una, poi quella, vedi, oh, guarda, questa qua sta ballando, aspetta che ballo anch'io, no? E continua così. Bene, bene, è una cosa positiva, decisamente. Quindi avete proprio gli ascoltatori, cioè quelli che partecipano ai vostri concerti, che si avvicinano perché voi date l'occasione di movimento, date l'occasione dell'idea. È proprio una scelta, come apri il disco, apri il concerto. Quindi nessuno seduto, tutti in piedi davanti al palco. Deve finire pian così. Piano, deve finire tutti in piedi, al massimo sulla seggiola stai in piedi. Però di sicuro non devi stare seduto al nostro concerto. È capitato anche di averli sul palco con noi. Come è capitato di averli sul palco con voi? Ma ogni tanto ci piace chiudere così, una canzone un qualcuno. No, faccio salire tutti. Una confusione musicale, dai, possiamo dire. No, così. No, ma non è che suonano con noi, loro stanno lì a fare un po' di casino. Bene, può essere anche divertente, chiaramente. È un'idea, divertente. Anche quella è un'idea. L'idea del gruppo in se stesso, l'idea di allargare il suono. C'è chi fa la spaccata con la chitarra e c'è chi fa salire il pubblico. È bello. Ovviamente non se sono 2.000 o 3.000 persone. Però ci vuole questa partecipazione. Una ventina di persone sul palco fanno piacere. Bene, l'idea, abbiamo detto che l'idea del pezzo, come è nata, non abbiamo spiegato Stefano, all'inizio proprio, al di là della partecipazione di Andy, al di là di tutte le altre cose. Il pezzo praticamente scheletrico, come era nato nella tua idea, nella tua formazione musicale? Ma è molto tempo fa, perché questa è la prima del disco e anche la prima che è stata scritta per il disco. Ma il disco, scusami, quei 10 pezzi che adesso abbiamo nel disco, sono tutti scritti contemporaneamente o sono... pezzi scritti precedentemente, rimessi nel disco? No, nell'arco del tempo abbiamo scritto, però questa è sicuramente la più datata. Questa già quando facciamo i concerti, i primi concerti, non c'era ancora il pastierista, che non c'era ancora lui. Facciamo questa canzone qua, in una versione leggermente diversa, però il tempo era questo, no? E quindi scrittura... non c'era neanche il batterista. Ah, non c'era neanche il batterista. Sono due. Eravamo noi e un altro batterista. Ah, un altro batterista. E un altro tastierista. Quindi sei stato una rivoluzione, un cambiamento della formazione. Infatti capisci quando è arrivato il momento di fare un disco, quando hai trovato anche la pace interiore del gruppo. Certo, no? È giusto. E noi abbiamo trovato questa che possiamo chiamare famiglia per noi, nel senso è quasi impossibile litigare. Beh, si litiga, nel senso positivo del termine, ci litiga per cercare di portare avanti delle idee, esatto, questo è il certamente. Litigare. Però non si litiga mai, non ci sono mai litigi cattivi. No. È un litigio costruttivo. Avvicinati al microfono. Dicevo, è un litigio costruttivo. È giusto quindi... che sia così. Una band deve essere così, un litigio costruttivo per dare un... Per, ampliare l'orizzonte, per cercare di eliminare certi errori o certe cose che non sono perfettamente riuscite. È lo stesso discorso delle critiche e dei complimenti, almeno a livello personale. Beh, io ho letto le critiche, sono state positive, non sono state negative. Certo, del disco. Certo. In generale, però se una critica è positiva, ci aiuta a crescere, a vedere di cambiare. Ecco, hai detto una cosa che giusta. Probabilmente critica abbiamo sbagliato. Una critica fatta in una certa maniera, non negativa per partito preso, ma fatta in una certa maniera, gli dà la possibilità di crescere. Questa è una cosa decisamente vera. Perlomeno ci fa pensare. Poi non è detto che si cambi. No, però si può tentare di farlo. Però ci riflettiamo. Chiaro. Dimmi, Sergio. Su queste cose delle critiche possiamo, nel senso, parlarne molto. Dimmi. Però il discorso è, le critiche sono... A noi piacciono molto più le critiche dei complimenti. Tanto che, per dire, io personalmente non riesco a fare un complimento a un gruppo. Di solito sono molto più bravo a dire: ma io avrei sistemato magari questo, no? Ma in senso buono, non in senso cattivo. È che ovviamente quando ti esce un disco hai tutto il mondo, nel senso tutta Italia nel nostro caso, tutte le riviste, webzine, eccetera, del settore. E ovviamente arriva questi sconosciuti che devono essere recensiti, no? Sì. E quindi ci sono state delle grandissime, bellissime recensioni, robe da mettersi a piangere mentre le leggi, no? Poi c'è stato qualcuno che ha anche parlato della originalità della cosa, no? Ma c'è anche da spiegare questo, il fatto che nessuno pretende, noi non pretendiamo di essere originali, come spiegavo già anche prima che in un'altra radio, no? E anche qua a microfono spento, sì. È molto semplice per noi. Noi concepiamo la musica in una certa maniera e ascoltiamo determinate cose. Quindi ovviamente a noi piace fare determinate cose che ci vengono da dentro. È una cosa che hai dentro, e la fortuna di sapere cosa ci viene dentro, da dentro, è già un passo avanti. E non pretendiamo di essere qualcosa di nuovo. I Muse sono qualcosa di nuovo, anche se l'ultimo disco non è proprio qualcosa di nuovo. Esatto, infatti abbiamo preso successo su certe riviste, abbiamo preso più stelline noi dei Muse. Sì, hanno preso uno o due su una rivista, sì, molto originalissimi. Però non so, Marco, se sei d'accordo. Sei d'accordo nell'ultimo dei Muse? Non è, ha già detto anche lui che non è proprio il Muse che noi abbiamo. Io sui Muse penso comunque che gli vada portato rispetto per tutto quello che hanno fatto prima. Sì, sono d'accordo. No? Ma il discorso dei Muse è che hanno avuto un grandissimo successo con l'ultimo disco. E le cose con i grandi successi qualche volta non collimano, non si avvicinano. È quel motivo delle due stellette date ai Muse recentemente. Ritorniamo al vostro comunque discorso. No, il discorso è molto semplice. Era il fatto che noi ci piacciono gli anni 90 e quindi noi scriviamo in stile anni 90. Ciò non vuol dire che dobbiamo far tornare gli anni passati ad oggi. No. Però ovviamente noi riprendiamo e cerchiamo di dare un ricordo anche di quello. Ovviamente cerchiamo di evolverci, ma cerchiamo di dare un ricordo. Quindi non ci interessa essere troppo originali. Se volessimo essere molto originali, faremmo musica anni 90 con i violini e le trombette. No, invece gli anni 90 suonavano così e noi ci piace suonare così. Sì, poi ovviamente è stato bello. Comunque è bello leggere quello che pensano di te, perché ci sono tutti opinioni diverse, no? Ed è bello metterle insieme, perché comunque si cerca di crescere. Però secondo la mia opinione, alcuni l'hanno ascoltato e hanno fatto la critica giusta, che mi aspettavo. Altri non l'hanno ascoltato. Altri hanno ascoltato troppo poco. No, hanno ascoltato troppo poco. Hanno ascoltato nel senso del sono gli anni 90, sono partiti da questo. Ma se ci sono quei personaggi che, se non suona come Bob Dylan, non è nessuno. Basta uno. Lo so, è così. È bello. Voi vi siete ispirati agli anni 90, ma siete voi e basta. Noi siamo noi. Li suonate in questa maniera, basta, chiuso. Certo. Cioè, giustamente ci sono le diverse angolazioni, ognuno pensa in questa maniera, però fra tutte le critiche ci sono, se mettiamo 10 critiche, 7, 8 sono positive. No, ma le altre due non sono che siano negative, hanno determinati punti di vista. Certo, no, ma era solo per spiegare il fatto dell'originalità, che purtroppo, sai, quando ti fanno una recensione non puoi mai spiegarglielo, perché comunque non parli con la persona. Quindi l'unica occasione che ho è in radio di spiegare, certo, ma è solo la nostra idea, diciamo. È così. Giusto che sia così. Sentiamo un altro pezzo da disco, traccia numero non la ricordo, però stavolta. Traccia numero 3 dovrebbe essere, che è Four in a Row. Sì, Marco dice 3, quindi Four in a Row, che abbiamo suonato prima in acustico. Ecco, adesso la sentiamo da disco allora, ok? Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. know your name, of that I'm sure. And I remember that, I know your smile, but tell me more. I wanna stay up all night long, you and I, and becoming a simple touch to other kind. You're expert on pollution, but you're talking through your head. Sheriff, if you fly off the handle, I will never make you mine. We play this game, but now I'm bored. I'm begging you all the time, I cry. Let me answer the phone, you could be just a friend of mine. Alright, just one more minute, but now I can see the sun in the sky. Mary, I think you're expert on pollution, but you're talking through your head. If you fly off the handle, I will never make you mine. Say, you blow the whistle on my phones and I will never remember that. And I'd love to tell you all the problems, but you don't. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, i fratelli Gallagher non finivano mica così, o forse finivano così anche loro, dipende, dipende come girava l'onda. Qualcosina, dipende, questo jam session finale, queste voci, scena da pub, scena da pub, esatto, questi applausi, queste risate. E anche in questo caso è stato un venite ragazzi, entrate in studio che abbiamo bisogno, e quindi c'erano tante persone che continuavano sempre di più. E tiravamo, urlate, ancora un po'. Avete registrato tutto quanto praticamente. Esatto. Bello, è una cosa spontanea, non ideata prima, l'idea è partita immediatamente. È proprio stata una cosa alla fine di tutto. Si dice, vabbè, ma perché non ci mettiamo questo come scena, una scenetta finale? No? Bello. Ci sta. Sì, ci sta, assolutamente, è un pezzo divertente che fa correre, fa movimento, che fa... Non puoi stare fermo. No, non si può. L'idea parte sempre dal movimento della vostra band. Infatti, i 10 pezzi sono di movimento. Esatto, non è il tempo di prendere fiato. Esattamente. No. Quello che è importante, un gruppo rock se qualcuno prende fiato, no, non dovrebbe prendere fiato. Se ti rilassi troppo, se ti rilassi troppo, sei fregato. Sì, ma c'è un momento di ballade. Ballade e Boston non esistono, meglio, sono camuffate. Ma no, ma in verità, guarda, quando nascono le canzoni, visto che magari le scrivo con la chitarra acustica. Con la chitarra acustica, sì. Sono sempre molto lente. Sono molto lente, ma poi... Poi arriva il batterista e dice... No, no, dai, mi annoio così, no? Facciamola così. E boh, allora prendiamo il ritmo e via. Certo, facciamola così. Batteria è la sezione ritmica. Noi abbiamo il bassista che canta stasera, non ha il basso. È la sezione ritmica, è fondamentale. Sì. Una band come la vostra. Ma in tutte le band. Sì, quello sicuramente. Però Non abbiamo un Paul McCartney, ma abbiamo un Alessandro Silvotti. Col baffo. È importante. A proposito di baffi, citiamo altre cose. Adesso abbiamo i 5 dischi da portare su un'isola deserta. Sono le 23, quindi è l'ora fatidica. Adesso il baffo, Alex, il baffo della band, comincia lui il giro. 5 dischi, c'è una regola fondamentale, gli ascoltatori lo sanno ormai da tanti anni che facciamo questo giochetto, non si può copiare assolutamente. Infatti mi tengo il mio foglietto. Vedi, avete avuto il tempo di scrivere il foglietto, di solito non capita mai, è una roba improvvisa. Sono stato bravo, gentile, noi della redazione. Grazie. Abbiamo deciso, a proposito della redazione, salutiamo e ringraziamo Alberto Prisco, che è stato lui l'artefice della vostra venuta stasera qua. Vai. Bene, come primo direi Standing on the Shoulder of Giants, Oasis. Vedi, hai citato i fratelli Gallagher. Da lì dobbiamo partire. Partite da là, ma da perché lì? Partite da là, secondo me? Beh, io personalmente... Perché parti da lui? Da lui o da loro, dai? Io personalmente perché è stato il primo album che ho conosciuto e con cui alla fine poi mi sono avvicinato a tutto il genere British. E quindi per forza, e poi comunque lo ritengo il primo, forse il migliore album degli Oasis. E quindi per questo... Mi è rimasto comunque nel cuore. Ti è rimasto nel cuore. Come secondo direi Revolver dei Beatles. Ecco, vedi, abbiamo citato gli Oasis, ma se non ci fossero stati i Beatles, non ci sarebbero stati gli Oasis. E quante altre band? Probabilmente no. Sicuramente non i primi Oasis. Esattamente. Dopo hanno un po' dopo cambiato. Si sono un attimo spostati. Esattamente. Però, ma i primi sì. Sicuramente. Revolver è un disco meraviglioso. Revolver è sicuramente tutto quello che... che uno che ascolta rock può trovare in quel disco, no? Trovi la psichedelia, trovi tutto. Praticamente penso tutto quello che uno cerca, no? In quel disco. E io sto. Il successo che stanno riavendo i Beatles, ha sempre avuto, ma adesso in Italia si sta vendendo in edicola il catalogo completo dei Beatles. Esatto. Hanno un successo strepitoso. I Beatles non moriranno mai dal punto di vista del successo, perché generazioni su generazioni continueranno a prendere i dischi di Beatles, perché i Beatles hanno creato un suono. Io stesso sto rifacendo la collezione. Esattamente, al di là della masterizzazione, al di là di questo e di quell'altro, è il suono che conta. E loro cambiavano sempre, hanno sempre cambiato fino all'ultimo. Esatto. Anche con l'ultimo Let It Be, criticato, non criticato da Paul, perché c'era l'organizzazione di Phil Spector che lui non voleva, eccetera. Al di là di questo... Poi diciamo che anche fra i fan dei Beatles addirittura c'è un altri sotto fan, cioè chi è fan della prima era, chi sì, è fan della seconda. Sì, vero, verissimo, era. Verissimo. Io personalmente sono della seconda era. Mi preferisco un po' più cappelloni. E poi vogliamo cappelloni. Parlare di Paul McCartney. Pid, il famoso Pid, Paul is dead. Paul is dead. Che continua la storia, è vivo, non è vivo, è lui, non è lui. Sono tutti messaggi volutamente fatti ad arte dagli stessi Beatles, dicono. Probabilmente sì, in ogni caso i Beatles è un mondo assolutamente esatto. Un mondo. No. Quindi Beatles poi Stanley Road, Paul Weller. Ah, Paul Weller, hai citato i Jam, hai citato Paul Weller come solista. Esatto. Come mai un grande personaggio Paul sicuramente Weller. Come solista, anche lui lo possiamo definire un altro dei nostri padri. È assolutamente British lui, sì. Decisamente British. Beh, lui è British proprio nell'anima, British non puoi... nell'anima, totalmente British. Esatto. E cosa dire, Stanley Road è sicuramente l'album di maggior successo. Ma anche sicuramente quello dove trovi anche lì pezzi veramente stupendi, inarrivabili. È un grande costruttore di suoni, un grande esatto. Creatore, un grande musicista Paul esatto. Weller. Uno che anche comunque negli ultimi dischi si è potuto permettere di fare un qualcosa di innovativo alla veneranda età di 70 quasi, penso. No, Paul Weller è molto meno. No, Paul Weller ne è un po'. La sessantina sì, però. No, forse no. Raggiunge i 50. Poi 50. Vabbè. Marco Paul Weller no. Sui 50 anni ha sicuramente. Non, deve aggiornare su Wikipedia, esatto. Lui. Beh, no, diciamo, assolutamente non è così anziano, poi quello, assolutamente. Diciamo alla sua sua età, diciamo. Tra i 50 e i 60. Ok, ecco. Fra i 50 e i 60, cioè trova ancora comunque il coraggio di sperimentare anche negli ultimi dischi che possono piacere o no. Qualcuno ha tirato un po' il naso dicendo, esatto, non sono proprio i Paul Weller che conosciamo, però chiaramente, esatto, uno deve sperimentare, deve andare avanti. Io dico solamente una cosa. Ne ha 50? 54, ecco, vedi. Marco ha subito visionato, quindi tra i 50 e 60 abbiamo detto giusto. No, beh, dico, alla fine, quando arrivi secondo me lì, tu puoi fare qualsiasi cosa. Lo so, ma uno che ha fatto, che ha inventato i Japan, ha inventato altre cose. Ma uno che fondamentalmente ha portato avanti un movimento, esatto, che era i Moz. Io penso che lui oggi come oggi possa fare quello che ne vuole. Esatto. Poi? Quarto, Just Enough Education to Perform, Stereophonics. E com'è stata una band non conosciutissima o conosciuta in parte? Qui in pochissimi l'hanno citata, assolutamente, delle puntate precedenti. Beh, diciamo che io gli Stereophonics come genere di gruppo l'ho sempre accostati molto agli Oasis. Ok. E ho sempre sostenuto che secondo me se non ci fossero stati gli Oasis, probabilmente gli Oasis sarebbero stati gli Stereophonics. Ah, ho capito. Perché probabilmente, sicuramente i pezzi che hanno, anzi avevano loro più nei primi dischi, sono dei pezzi stupendi che probabilmente, proprio perché sono coincisi negli stessi anni degli Oasis, non sono riusciti a raggiungere, Le vette il successo che probabilmente si meritavano. Certo. E poi secondo me, parlando proprio di voce, Kelly Jones è probabilmente una delle migliori voci. Supera il fratello. Come? Supera il fratello. Beh, sicuramente. Se dici. Probabilmente. Fratello, citiamo gli Oasis sempre. Sì, certo. Fratello, Beh, diciamo, sono due cose differenti. Proprio di, diciamo, se uno vuole vedere anche una tecnica vocale, probabilmente è una delle migliori voci degli ultimi 20-30 anni. E lo metto di fianco magari anche a Chris Cornell, anche se è un altro genere. A proposito di Chris Cornell, è uscito il nuovo di Soundgarden, vero? Vedi, mi conferma. Lo sentito. Il nuovo di Soundgarden. Esatto. Loro sono altri che probabilmente era meglio se stavano a quello che avevano già fatto. Però. Lui può fare quello che vuole, un altro che fa quello che però vuole. Però ti dico, noi li abbiamo sentiti luglio, qualche mese fa, e vedere Chris Cornell vestito come se andasse in discoteca di bianco e a un certo punto del concerto dire guardate ragazzi che bella luna non è più una volta, non è più quello di una volta. Sono cambiati i tempi, mi sono cadute veramente, non solo i tempi. Tu cosa dici, okay, Marco, su questo? Non fai commenti. Okay. Marco non ha fatto commenti. Ok, ultimo disco, sì. Quadrofinia. Ah, ecco, vedi, questi i commenti li possiamo fare su Quadrofinia. Vabbè, qua si positivi. Apre un mondo. Nel senso, partiamo da... Quanto bravo è sempre stato Pete Townshend a fare certe cose. Sicuramente lui, e sempre parlando di voci, ricordo anche, non c'ero ancora, però il cantante è sempre stato molto criticato da altri. Noi l'abbiamo visto qualche mese fa che ha fatto Tommy da solo. Sì. Bellissimo, nonostante tutto. Ai tempi è quasi sempre stato criticato per la sua vocalità, no? Lui non era sicuramente uno che andava a ricercare chissà quali melodie. No, lui era, spaziava. Però loro erano spaccava. Diretti, potenti, esatto, distruttivi, spaccava. No? Loro erano, capito? Così. Non c'era tanto da fare. Un po', se vogliamo fare un paragone anche qua, senza bestemmiare con noi, no? Alla fine non si punta tanto sulla chissà cosa, sull'effettismo, l'impatto. E l'impatto, basta. Beh, il nostro Roger Dati era uno che poi impattava bene. E poi dopo su Quadrofinia si possono dire mille cose. C'è stato un film anche lì. Anche qui si possono dire sulle interpretazioni di Sting, si possono dire molte cose. Esatto. Quindi lì alla fine hanno dato il via a un movimento, certo, a tutto un mondo, no? Quindi. Fantastico. Beh, Quadrofinia, tanti altri dischi importantissimi degli U. E gli U era un gruppo, ragazzi. My Generation l'hanno scritto loro, mica una cosa da poco. Il nostro grande tastierista che si avvicina al microfono, Back in Town, chiaramente. Dimmi. Eccomi qua. Vai. Entriamo nell'angolo degli anni 70. E li ha scritti nel telefonino, ce li ha segnati nel telefonino. Adesso, una volta c'erano i pezzi di carta, adesso ci sono i telefonini, purtroppo è così. Dimmi, l'evoluzione. È la prima cosa che ho trovato sotto mano. Dunque, io premetto che ho dei gusti completamente diversi. Mi sto approcciando al Brit Rock grazie a loro, quindi è giusto che citino loro l'album principale di questo genere. Io rimango ai miei gusti. Beh, giusto, i gusti tuoi sono importanti come i gusti di loro. Allora, il numero uno, ovviamente, Dark Side of the Moon. Quasi ci fermiamo un secondo. Perché Dark Side, no? Atom Armada o Animals o The Wall? Dimmi te, perché Dark Side? Ma Animals ci starebbe. ci starebbe anche, ma gli altri magari un po' meno. Però Dark Side of the Moon perché... Che è il primo disco che hai acquistato? No. No, non è proprio così. Perché dal primo secondo quando l'ho ascoltato ho detto questo non è solo un album... È un masterpiece assoluto. Sì, che non è un album che ti scivola addosso, no. Questo ti rimane. Ti rimane dentro, è rimasto dentro per 60 milioni di persone, sì, visto sì, che sì. Ha venduto non so, una sessantina di milioni di dischi. Perché poi qualunque persona si può trovare dentro qualsiasi cosa. Beh, so che queste sono cose che ognuno può dire sul suo album preferito, però possono sembrare banali, ma... Quindi The Dark Side, è assolutamente The Dark Side. Sì, sì, sì, c'è tutto, dal significato dei testi all'ingegneria del suono a qualsiasi cosa, alla strumentazione. L'apice ricercata. Di tutto, praticamente. Sì, sì, sì, sì, sì. Poi, number two? Al secondo posto, Wish You Were Here dei Pink Floyd. Ah, un'altra volta i Pink. Come mai adesso? Qui c'è Syd Barrett che interviene oppure no? No. Non c'è, vorrei che tu fossi qui, non c'entra. Non sei barrettiano te? No, i Pink Floyd dei primi due album... li conosci poco? No, beh, li conosco, però non sono così... Non mi hanno lasciato così tanto il segno come questi due album. E beh, non ho messo Animals perché sennò facevi proprio una lista floydiana al 100%. Ci aggiungo anche Echoes, visto che Echoes non è un disco un po' particolare. Ok, va bene. Allora, quindi Wish You Were Here e The Dark Side, primi due. Ok, sì, Wish You Were Here perché principalmente c'è quella canzone divisa in due, Shine On You Crazy Diamond, che è fantastica. Io sono amante delle canzoni che si dilungano per mezz'ora e mezz'ora, quindi lì è il mio campo. Bene, attingo un po'. Al terzo posto un album sconosciuto ai più, è di un gruppo californiano, quindi qui ci ricolleghiamo a Country Shop, che si chiama Astra, è di qualche anno fa e l'album si chiama The Weirding. Lo conosci Marco Astra? No, io non lo conosco. Dimmi, è un po' da dove psichedelia prog allo stato puro. Ah, non lo conosco assolutamente. Bene. È un disco abbastanza recente, però ci sono tutte sonorità anni 70, 3, tipo 4, 5 tastiere, quindi è il mio pane. Bene, ottimo. Io sono amante di sonorità come Lemon, pianoforte elettrici, Mellotron, synth, quindi... Quindi potevi sentire un po' i Nice o gli Emerson, Lake & Palmer in prima maniera. E qui introduciamo il quarto disco, il primo degli Emerson, Lake & Palmer. Vedi caso, vedi caso, Lucky Man, tutti lo ricordano per Lucky Man, ma non c'è solo Lucky Man, c'è altre cose. Sì, sì. Come mai Help hai scelto il primo disco di Emerson, Lake & Palmer? Lake, grandissimo Emerson, si sa chi è Palmer, che non c'è il batterista stasera, ma è un altro grande. Perché forse è un po' il meno esagerato di tutti. Cioè hanno un po' lasciato, cioè ridotto la magnificenza di Emerson in questo disco. Sì, perché poi gli altri po'... Su Emerson vabbè si possono dire tante cose, però pur essendo uno tu sei un tastierista, cosa ne pensi di Emerson? Bene, assolutamente. Pur essendo uno dei miei idoli posso dire che è un uomo dal cattivo gusto imperante. Cioè in che senso? Ma sia come sonorità, come esagerazione, certe cose... Preferisci Rick Wakeman? No, preferisco Emerson, però mi trovo spesso a storcere il naso. Ah, ho capito. Non so, come dall'avvento degli anni 80. Sempre esagerato in tutto, dici? Sì, sì, sì, ha usato anche dei sintetizzatori polifonici che, vabbè, io personalmente non avrei mai usato, però vabbè, giustamente è diventato... Famoso. È diventata storia. Sì, certo, certo. E no, l'ho inserito perché comunque la mia formazione è una formazione abbastanza classica di pianoforte e dal momento in cui ho sentito il primo album di Emerson, degli Emerson e Lake & Palmer, lui si ritrova a suonare cose molto classiche, però magari con Lemon distortissimo, oppure se vi capita di trovare qualche video su YouTube, certo. C'è lui che infilza le tastiere. Ma l'ha sempre fatto anche i Nice, non è mica una novità, sì, faceva già prima. O con i pianoforti a coda rotanti, quindi non so, un tastierista giovane rimane folgorato da questa cosa. Poi scoprendo che erano tutte tecnologie già esistenti negli anni 70, non sono cose sì. recenti, quindi davvero sono rimasto a bocca aperta. Bene. Quinta scelta, Black Market dei Weather Report. Ecco, come mai una scelta così oltrecorrente, cioè fuori di questo mondo che abbiamo parlato del Britpop inglese? Sempre per il mio amore verso i tastieristi. Mm. Da subito ho capito che Zawinul, il tastierista dei Weather Report, grandissimo, l'unico dei due rimasto fisso nella formazione, sì. che era abbastanza variabile anno per anno, l'ho reputato fin da subito una persona molto umile, pur non avendolo mai conosciuto personalmente, però sì, erano grandi loro, come strumentisti erano straordinari. Sì, sì, sì, sì. Lì vigeva la regola: chi è il più bravo quest'anno, chiamiamolo a fare il disco. È vero, questo è proprio così. E, beh, insomma, Black Market è un disco abbastanza godibile, cioè di grande successo. Sì, hanno fatto dischi un po' più difficili di Black Market. Sì, sì, beh, diciamo che i più famosi sono Black Market e Weather. A me piace I Sing the Body Electric. Ah, un disco, secondo me, lo trovo meraviglioso. Forse il disco meno jazzato dei Weather, più rockettaro o presunto tale. L'ho comprato molti anni fa in vinile. Sì, sì. Lo ricordo, una volta si usavano i dischi in vinile con un buchino vicino, che erano i cosiddetti dischi della NATO, che venivano giù dagli Stati Uniti a prezzo ridotto. Era l'etichetta Columbia, l'etichetta rossa. A me è piaciuto molto I Sing the Body Electric. Poi erano fatti tanti altri, forse migliori, però io sono partito da quello. Beh, sì, è un gusto, un piacere di sentirlo. Sono passati tanti anni, molti anni. Sì, sì, il Weather è un gruppo straordinario, è sempre stato un gruppo straordinario per tanta gente che ama soprattutto il jazz. Poi sono molto avvicinati poi al jazz rock, così. Sì, sì, sì, beh, erano abbastanza, si può dire, elettrici. Decisamente elettrici. Quindi strumentali all'ennesima potenza. Ah, sì, facevano dei lunghissimi giri virtuosi di strumenti. In quest'album ci sono due incursioni, mi sembra, di Pastorius. Sì, è vero, ancora... un altro immenso, quello era proprio immenso. Sì. A proposito dei bassisti, caro sì. Alex. No, beh, stavo pensando fra me e me che... Adesso, l'ultimo gruppo in particolare non lo conosco, però per farti capire quanto sono ignorante. Perché ignorante? Quando ero un po' più piccolino, no? Che neanche conoscevo l'inglese, pensavo che fosse Emerson like a Palmer. Cioè, Emerson come un Palmer, no? Ah, e non era proprio così. Solo dopo ho capito che invece erano tre nomi ben... No, ma citavo Jacopo Pastorius, penso il più grande dei bassisti che c'è stato nell'universo musicale. Vabbè. C'è poco da fare. Anche se personalmente preferisco quello degli U. Vabbè, ok. John. Insomma. Sì, era perfettamente. Buon John. Buon John, sempre perfettamente in linea, non si muoveva mai, era statico. Sì, però si muovevano bene le sue dita. Certo, le sue dita si muovevano alla grande, ma no, incredibile. Vai, tocca a te, caro Stefano. Allora, beh, io vado sul classico. Vai sul classico. Sono Noel Gallagher dipendente. Come sempre. Quindi penso di averlo ascoltato almeno 1000 volte. A proposito, tu hai detto che hai visto 5 concerti di Noel. Sì, ma no, ne ho visti molti di più, in totale 15, perché comunque l'ho visto quando ha fatto il concerto in acustico per i malati di cancro. Sì. Ho visto gli Oasis in 1000 salse e lui da solista in 1000 salse, e penso che il suo disco sia un qualcosa di fuori, cioè proprio è fuori da tutto, proprio un disco dove la canzone brutta non esiste, no? Okay. Quindi è per forza il disco più bello del mondo per me. Ho capito. E subito dopo ci devo mettere gli Oasis con What's the Story Morning Glory, che è il disco più famoso loro. Ovviamente, secondo me è un qualcosa di... Tu lo metti su e ti siedi sul divano e ti partono in fila dei capolavori come Roll With It, Wonderwall, da Lubeck in Anger. Cioè, non c'è una canzone brutta. Io ti chiedo una cosa da Oasis dipendente, nel senso positivo. Sì. Noel che importanza aveva rispetto al fratello? Dal punto di... Il fratello aveva la voce, Noel aveva tutto praticamente. Beh, suonava, scriveva tutto. Io sono un po' di parte, diciamo, però io sono più verso Noel, anche se non bisogna per forza schierarsi. I due fratelli si sciolgono, non capisco. Si sono schierati. C'è chi si schiera. I fan si sono schierati. Beh, diciamo c'è chi si schiera. Se vogliamo proprio prendere la storia pura pura, all'inizio e alla fine è stato grazie a Liam, no? Perché sì, comunque il produttore che ha visto gli Oasis per la prima volta ha visto Liam. Sì, perché ha visto come sta la voce. Ma questo come sta sul palco? Guarda come si mette e senti come canta. Poi dopo è arrivato Noel, che se non avesse scritto i capolavori che ha scritto, gli Oasis non sarebbero stati loro, no? Quindi praticamente non ti sei schierato. No, beh, sì. Sì e no. Sì, sì, no. Sì, non sì, netto, no. Diciamo, non in maniera netta. No, non in maniera netta. Però ovviamente se tu senti il disco dei BDI e senti il disco di Noel Gallagher, Ike Frame Birds, molti hanno molto apprezzato quello di BDI, un po' meno quello di Noel, è il contrario. Ma guarda, ti dico, la cosa che dice sempre Noel Gallagher nelle interviste e che io gli ho sempre dato ragione è: i BDI non avevano le canzoni giuste. Cioè, se avessero avuto anche solo una canzone del disco di Noel Gallagher, i BDI sarebbero stati una delle 5 band più brave del 2012, nel 2011 più che altro. Sì, esatto. Però è proprio lui, cioè lui scrive di quei pezzi incredibili. Ma lui è l'autore proprio di tutti i pezzi di... E pensare a What's the Story, Morning Glory, ai tempi dove si sono potuti permettere in un disco che è rimasto nella storia di trovarsi in studio Noel Gallagher e Paul Weller, con Paul Weller che faceva la solo di Champagne Supernova sopra una solo di Noel Gallagher, e gli diceva alza il volume, e Noel Gallagher ubriaco lo guardava e rideva e non ha mai alzato il volume. Ci sono questi due soli che si incrociano e non si capisce niente alla fine, no? Se pensi che hanno potuto fare quello, capisci tutto di quel disco, no? Certo, certo. Poi ho scelto Costello Music dei Fratellis, che è il loro album d'esordio con cui sono arrivati alla ribalta, e anche lì è un po' tipo il nostro, tutto d'un fiato, no? Sì. Non puoi fermarti. Anche le lente prendono quella forma che poi ti portano a muovere la testa così. Poi ho scelto A Certain Trigger dei Maximo Park, che è il primo come disco. Hai scelto i Maximo Park? Maximo Park, guarda, ti dico, li ho scoperti tardi, però penso che lui sia un personaggio incredibile. Ho avuto la possibilità di vederlo un mese o due fa. Ma quanti concerti hai visto, così per curiosità? Ma io ne vedo tantissimi. Cioè, solo quest'anno ho visto i Maximo... L'ultimo che hai visto? L'ultimo che ho visto è stato quello dei Maximo Park, mi sembra. Ah, vedi caso. Proprio l'ultimo è stato Maximo Park. Penso di sì. E comunque, A Certain Trigger, secondo me, è un gran disco. Veramente un gran disco. Bene. È stato proprio... è da lì che hanno... però lui è proprio il personaggio, lo vedi, salta, si muove, un continuo movimento, è proprio fantastico. E poi ho scelto quello dei Supergrass, però un po' fuori dagli schemi. Non ho scelto il classico di Supergrass, ma ho scelto Road to Ruin, che è un disco un po' più sperimentale, ma è secondo me un disco che tu lo lasci, sono canzoni lente molte, no, ma sono canzoni che ti lasciano qualcosa. E quindi lo ascolti, lo riscolti, lo riscolti. È proprio troppo bello. Ho capito, benissimo. 23:18 e quasi 19. Adesso cosa facciamo? Abbiamo parlato tanto. Sentiamo un altro pezzo da disco e poi cominciamo a suonare ancora. E ti ricordi la traccia che abbiamo scelto? La prossima è It's Gonna Be Alright. La traccia numero 4. Che è un po' jet e un po' U. Ah, bene, adesso la sentiamo e poi ne parliamo, ok? Rock Wave. Rock Wave Live. Keep trying. Rock Wave. Rock Wave Live. C'è poco da fare. Abbiamo citato gli U, gli U sono venuti fuori alla fine e all'inizio, poi il centro no, le cose sono un po' cambiate, sono i Flowers al centro, però all'inizio, la solo iniziale, chi te la, come hai avuto l'idea di arrivare così inconsciamente a Pete House e Company? Ma infatti non ci ho pensato, me l'hanno fatto notare dopo. Una bella, sì, notare, sì, no? Bello. Altro che, io avevo più pensato a una cosa in stile Jet, mi piacevano i primi Jet soprattutto, secondo me erano fantastici. Poi lui ha perso un pochettino di voce, però sono sempre stati anche dal vivo, li avevo visti anche loro. Ah, hai visto anche loro, chiaramente. Hai visto tutti praticamente. Sì, sì, sì. Potresti chiedermi, Paul Weller l'ho visto anche in Olanda, l'ho visto. Ma come mai sei andato? Sono andato in Olanda per vedere Paul Weller a Utrecht con il nostro vecchio tastierista, che è Reina, che lo salutiamo. Siamo andati là apposta a sentirlo. Perché era proprio, cioè lui è proprio una cosa dal vivo. Com'è dal vivo Paul Weller? Beh, è una bestia. È una bestia. Sì, una bestia. Sì, lui è proprio. Non so, ti trasmette un'energia che è. Anche una signora band, però. Sì, sì, anche una signora band. L'ha cambiata. La prima band che aveva era molto brava. Questi un pochettino meno. Secondo te era un pochettino meno. Beh, prima c'aveva Steve White alla batteria, che era il fratello del batterista degli Oasis. Vedi caso. Che era quello più bravo, però, dei due. Perché quello degli Oasis era un po' meno bravo rispetto a lui. E poi c'era Damon Minchella al basso e Steve Cradro, che è rimasto ancora adesso, che suona anche negli Ocean Color Scene. Esistono ancora gli Ocean Color Scene? Sì, stanno facendo un disco nuovo. Ah, è vero, sì, dopo parecchio tempo. Sì, si sono riuniti. E Paul Weller comunque è una cosa incredibile. Ha fatto all'Alcatraz, quando l'ho visto, penso abbia fatto quasi 3 ore di concerto. Ha tanti dischi, però. Sì, ha tanti dischi. Ma lui uno all'anno lo fa per forza. Sì, ha tanti dischi solisti, ne fa tantissimi. Sì. Qualcuno un po' meno bello, qualcuno un po' bello, qualcuno un po' troppo lungo, qualcuno un po' troppo corto, è un po' strano, musicalmente sì, è un genio. Lui si reinventa ogni anno. Esattamente, sì. Tu hai visto, poi mi dicevi che sei andato a Noel Gallagher, volutamente a Wembley sei andato a vederlo. Sì, alla Roundhouse, ma poi l'avevo visto alla Royal Albert Hall. Li conosci tutti a memoria, anche i minimi particolari della discografia. Beh, di Noel. Ha fatto un disco solo, vabbè. Però è uno studio approfondito, quello. Poi, vabbè, gli Oasis li ho visti ovunque. Di là degli Oasis, cosa hai visto? Un po' gruppi un po' fuori del... Gruppi, abbiamo visto di tutto, ho visto i Foo Fighters. Come sono i Foo Fighters? Dal vivo, li ho visti 2 volte e sono incredibili. Lui è veramente incredibile. C'è chi critica e dice, oh, perde la voce. Ma io non ho mai notato questa cosa. Forse l'avevo persa io la voce. Ma non per lui, gridare continuamente. E poi cosa ho sentito? Beh, Soundgarden, come parlavamo prima. Il disco nuovo è uscito. Sì, noi l'abbiamo sentito prima che uscisse. Non sei d'accordo, non sei soddisfatto del disco nuovo di Soundgarden? Ma io penso che Chris Cornell, io l'avevo visto anche con gli Audioslave. Com'era? Con gli Audioslave, la prima volta che l'ho visto a Bologna, lui saltava come un grillo sul palco proprio, e aveva una voce, ma dicevi, ma questo qua come fa a far così, no? Sentiti 2 anni dopo nello stesso festival, non aveva più di voce. Vedi. E dice, ma vabbè, come magari mai? Ha cantato molto la sera prima, no? O magari ha bevuto molto la sera prima. Anche quello può capitare. Quindi, però adesso secondo me ha perso molta voce. Molta voce. Però i Soundgarden, nuovo disco, hanno cominciato a smuovere notevolmente. Ne parlano tutti. Loro hanno una sonorità che li riconosci proprio. Certo, immediatamente. E poi un grandissimo concerto che ho visto sono stati Stone Temple Pilots, quando si sono riuniti. Ma lui è veramente un bel personaggio e ha dietro un chitarrista come si deve proprio. Bene, bene. A proposito di chitarristi come si deve, adesso facciamo una cover. Esatto. Che non ha proprio l'autore un chitarrista o presunto tale, non è proprio un chitarrista. No, è più un anche se lui aveva i Brand X, era un bel gruppo i Brand X, decisamente. Sì, però poi ha fatto anche Abba Cab, purtroppo, che è un disco schifoso, scusate il termine dei Genesis, veramente bruttissimo. Un disco da 5 o 6 milioni di copie, però c'è poco da fare. No, ma lui era comunque un grande musicista. È un grande musicista. È un grande batterista. Con i Genesis è diventato una grande voce, ma non era Peter Gabriel, ragazzi. A me va sempre... incuriosito molto il fatto che facevano questi tempi strani, no? Come se saltasse il disco in una canzone, no? Magari, però, tac. Ma lui faceva le cose molto particolari con i Brand X. Con i Genesis faceva le cose così per far soldi. Però... capita anche quello. Anche se i primi dischi senza Peter Gabriel, i primi 2 erano molto belli con lui. come vocalist. Ma su quello è molto più pratico il nostro batterista. Lui potrebbe stare se fosse stato qua avrebbe parlato delle ore solo di Phil Collins. Bene, di Phil Collins cosa facciamo sentire adesso? Noi facciamo anche dal vivo nei concerti una versione nostra, diciamo, di Easy Lover. Ah, che è un disco, che è un pezzo facile, molto pop, molto da classifica. Sui Flowers la fanno un po' meno da classifica, un po' più resistente. Esatto. Ok, sentiamolo. Easy lover, she got a hold on you, believe it. She's like no other, before you know it to be on your knees. She's an easy lover, she take your heart but you won't feel it. She's like no other, and I'm just trying to make you see. You're the one who wants to hold her, hold her and control her. You better forget it, but now you regret it. For she say that there's no other, till she finds another. You better forget it, but now you regret it. And don't try to change it, just leave it, just leave it. Get out quick, cause she is believing it's the only way. You'll never know. She's an easy lover, she take your heart but you won't feel it. She's like no water, before you know it you'll be on your knees. She's an easy lover, she take your heart but you won't feel it. She's like no water, but I'm just trying to make you see. You're the one who wants to hold her, hold her and control her. You better forget it, but now you regret it. For she say there's not another, till she finds another. You better forget it, but now you regret it. But don't try to change it, just leave it, just leave it. You're not the only one who sees, believing's the only way. You'll never know. You're not the only one who sees, believing is the only way. But you'll never know. She's an easy lover, she take your heart but you won't feel it. She's like no water, before you know it you'll be on your knees. She's an easy lover, she take your heart but you won't feel it. She's like no water, but I'm just trying to make you see. Sicuramente Phil Collins non l'avrebbe immaginata così, assolutamente. Questo è un pezzo molto dolcinato di Phil Collins, sì. Classifica, molto accattivante. E se Alex andava via, dritto, duro, ma duro, potente. Quando è che dal vivo ho visto anche un video e il ritornello lo faceva un corista nero, quindi... Quindi aveva un certo spessore. Certo, esatto. Io invece ho i baffi. Potresti essere nero con i baffi. Sarebbe un gran vedere. In ogni caso l'hai fatto molto duro, molto energico. Cioè, non sembrava una canzoncina. Tra virgolette, per carità, mi voglio. Diciamo che, come abbiamo detto prima, noi sì, non amiamo particolarmente le cover. però è anche vero che certe volte quando devi comunque farti un concerto per intero, cioè vale a dire non sei all'interno di un festival ma ti devi fare un concerto tuo, qualche pezzo cover lo devi pur preparare e purtroppo per fortuna anche i locali ti chiedono insomma buttaci dentro qualche cover, non fare solo roba tua. No? Com'è il discorso dei locali, visto che Alex hai tirato fuori questo discorso dei locali? Beh, il discorso dei locali secondo me, non so, dopo possono intervenire anche gli altri due, sì. Chiaramente. Dimmi. Beh, per quanto riguarda la nostra zona, penso anche la maggior parte delle zone d'Italia, il problema grosso è proprio questo, che ci sono pochissimi locali che permettono di far uscire un gruppo che fa musica propria o comunque di dargli lo spazio che merita. Tanti partono dal presupposto e dicono quante cover fate, quanta gente portate e magari anche vi pago in base alla gente che portate. Ah, perfetto, se portate tot vi ora, pago tot, se portate meno vi pago meno. Mi viene in mente una cosa buffa che ho letto su Facebook, no? Che praticamente c'era questo gestore del locale che dice praticamente al gruppo: allora voi venite nel mio locale, no? Fate una serata di prova, poi dopo gratis, poi se andate bene magari la prossima volta vediamo, no? Vi pago. Risposta mail del gruppo: fa sì, anch'io, questo era un bar, ristorante probabilmente, anch'io avrei bisogno, guarda, tu vieni a casa mia, fai un catering gratis, una prova, se poi va bene, tutti gli piace quello che fai da mangiare, la prossima volta ti pago, no? Ma è così, purtroppo. Però purtroppo è così, è triste, però poi purtroppo c'è anche, è così. C'è anche un altro punto di vista da mettere. Questo che ha detto, quello che ha detto Alessandro è giustissimo, no? Alex, in arte Alex. Ah, in arte Alex. Alessandro. È ovviamente giustissimo. E poi c'è l'altra faccia, l'altro lato della medaglia, che praticamente è il fatto che molte band sono sotto una agenzia di booking. Sì, certo. Esatto. E questa agenzia di booking, però, anche loro fanno la stessa cosa che fanno i locali, cioè hanno i loro amici o i loro gruppi. E se tu gli scrivi e ti proponi, non è che, ovviamente capisco il fatto che se tutti ti mandano il disco hai 10 milioni di dischi da ascoltare, non puoi farlo, no? Però comunque anche lì c'è sempre il oh, però questo qua è un mio amico, ascoltalo, no? E allora magari lo prendono. E quindi c'è anche quello, e loro potrebbero aiutare, quindi molti questo gruppi, amico potrebbe, no? Essere anche meno bravo degli altri, esatto. Però è l'amico. Beh, dell'amico, esatto. Perché è un po' come il fatto quando cerchi un'etichetta, no? Sì. Chi conosci questo, quell'altro, ma io non, cioè, noi avremmo mandato milioni. Visto che hai citato l'etichetta, citiamo nuovamente questa etichetta giovane, la Cafroid. Di dov'è questa etichetta? Giovane etichetta milanese. E che vi ha dato fiducia, vi ha dato fiducia. Ovviamente ci ha dato fiducia. E delle altre mille che avevamo contattato, perché ovviamente non sai se mandarla a questo o quell'altro, quindi mandi un po' a tutti, quelli del genere, ovviamente. Ne hanno risposto almeno uno solo la risposta che ha detto guarda, mi interessa. No non ha detto neanche, ho già programmato tutto l'anno quest'anno, quindi noi non aspettiamo un altro anno, grazie. Però comunque abbiamo apprezzato il fatto che lui rispondesse, no? L'unica ta risposta, ecco, questa è una cosa positiva. Quindi avete trovato questa etichetta. A proposito di questo, citiamo dove possiamo trovare il disco fisicamente, in che portali eccetera. Allora, il disco fisico lo trovate a tutti i nostri concerti assieme alle magliette e tutto il merchandise. Non hai mica portato la maglietta, cioè non hai indossato la maglietta. Non hai indossato la maglietta. Dimmi. E poi invece chi vuole comprarlo sui portali digitali, cioè su iTunes, su Amazon, su Deezer, sullo store della Vodafone, cioè ovunque, e lì si può comprare la copia digitale per una cifra bassissima, 99 centesimi a pezzo, meglio di così non si può. Si può, esattamente. E poi accettiamo chi vuole venirci a trovare su Facebook e scriverci o darci la loro opinione o invitarci a suonare da qualche proprio parte. Detto, concerti, ne avete qualche data? Concerti, noi abbiamo una data questo sabato all'Arcitown di Fidenza in provincia di Parma, e poi sabato successivo saremo invece nella nostra provincia. Facciamo un po' fuori provincia, un po' nella nostra provincia. Beh, la nostra provincia ovviamente è tutto molto più facile per noi. Certo, siete più conosciuti, chiaro. E questo sabato saremo alla città di Fidenza in provincia di Parma con un'altra band che sono nostri amici, che sono gli Anzalmi Project. E il sabato dopo saremo al Vierom 82 ad Alsino in provincia di Piacenza. E poi pian piano tutte le date le scriveremo ovviamente su Twitter, su Facebook, e teniamo aggiornati tutti. Ricordiamo il produttore del disco, che è anche il fonico di tutto, Cristiano Sanzeri, che è un santo che ha sopportato tutti. Ma noi abbiamo sopportato anche lui. Quanto ci avete messo a inciderlo? Ci abbiamo messo, beh, poco, relativamente poco, però abbiamo fatto con molta cura e calma, e quindi poi relativamente poco può essere anche relativamente molto. Ho capito, quindi... Diciamo che abbiamo iniziato l'anno scorso, verso settembre, che io avevo una gamba rotta. Aia. E poi è uscito quest'anno a ottobre, però in verità a febbraio era già tutto finito, era però tutto non pronto. Facendo tutti i giorni studio fino a febbraio, perché certo, ovviamente certo, era impossibile. Altro che un assegno che ci voleva, sì, no? Però no, non ci abbiamo messo nella norma, diciamo che ci hanno detto tutti, abbiamo fatto bene a curarlo, a fare con calma, non c'era nessuno che ci... Dal punto di vista grafico chi l'ha fatto? Il grafico è un nostro caro amico, che è Giovanni Tirotto. Che è bello, molto bello, il Tottairo, sì. È fatto molto bene dal punto di vista grafico. Sì, ha fatto un bel lavoro, abbiamo lasciato carta bianca a lui su come fare, e assieme alla copertina che l'ha disegnata Martina Cavazzi, che è un'altra ragazza che lei lo fa per passione. Le abbiamo spiegato un po' la nostra idea di come concepivamo il Mona Lisa Store. Mona Lisa Store, dobbiamo ricordarlo. Mona Lisa Store. E quindi lei ha ideato questa cosa che ci è piaciuta molto. E poi Giovanni ha completato tutto il resto, ha dato quel tocco di classe che serviva in più. Bene, benissimo. 23:38, quasi 23:40, un altro pezzo live. Adesso cosa abbiamo deciso di suonare dopo Phil Collins? Abbiamo riveduto deciso corretto, di suonare... sempre riveduto corretto. Abbiamo deciso di suonare Art of Life. Art of Life, perfetto. I spend my days bleeding for my pastime. Rivers of words trying to lies of my mind. Cause if I never go, I never know what you're looking for. And all the time, it's not a crime if I look in the sky. Please let me know, but I can't feel it. Why you trying to see me? And I can't feel it. Why you trying to see me? And I can't feel it. Why you trying to tell me? And I can't feel it. Why you trying to see me? These rainy days may be blue and gold for a while. The sun has stolen your eyes to shine a light on my back. Cause if I never go, I never know what you're looking for. And all the time, it's not a crime if I look in the sky. Please let me go, and I can't feel it. Why you trying to see me? And you never left me, cause you gave me the heart of lies so pretty. Boy, you trying to tease me, and you never left me, cause you gave me the heart of life. You trying to tease me, and you never gave me, cause you gave me the heart of life. Yeah. na, na. Ok, qua c'è un particolare. Qua citiamo Oscar Wilde. Adesso lo citiamo, il perché ce lo spiega Stefano o lo spiega anche Alex o il nostro tastierista. Allora, De Profundis di Oscar Wilde. Oscar Wilde, diciamo che un giorno sono capitato in questo articolo di giornale dove si parlava di Oscar Wilde, no? Oscar Wilde comunque è sempre stato un grande scrittore, un scrittore inglese, un grande personaggio, certo. Anche, no? E in questa lettera lui spiegava un po', mentre era in prigione, sì, esatto. di cosa provasse, il fatto si scavava nell'anima. Sì, si scavava proprio nell'anima e cercava di, non so, di liberare tutto quello che aveva dentro, no? Alla stessa maniera noi, leggendo qualche passo in inglese, c'era qualche proprio bella parola da pronunciare che aveva un grande significato. E quindi abbiamo deciso, come ad esempio "These rainy days may be blue and gold for a while", era proprio bello. E quindi mi ha detto: ma perché non metterlo in una nostra canzone, no? E magari usare quella un po' più profonda. Certo, certo. Poi un articolo l'ho letto che ha detto: Alex ha una bella pronuncia inglese. Decisamente è una bella pronuncia, anche se hai i baffi, è una bella pronuncia all'inglese, cioè una pronuncia perfetta quasi. Quindi è una cosa di merito per te. Beh, lì diciamo che per un italiano, beh, fondamentalmente sì, devi avere una buona pronuncia. Poi sicuramente aiuta il fatto che quando sei in sala di incisione, quando stai facendo un disco, soprattutto questo che abbiamo fatto noi, l'abbiamo curato particolarmente, anche proprio la parte vera e propria della pronuncia, no? Perché alla fine se vogliamo fare, diciamo, il gruppo internazionale, non possiamo esimerci dal cantare bene in inglese, no? Vi ha suonato qualcuno qua dentro questo pezzo? O sbaglio? In Art of Life ha suonato Lemond. Appunto, chi? Ha suonato Lemond, Paolo Apollo Negri, che è un grandissimo emondista. Emondista. No, noi abbiamo qua il tastierista che può... Che è un altro grande emondista. Può quantificarlo, esattamente. Anche Marco è un altro grande emondista. Lemond è una bella cosa, un certo fascino, vero Marco? Assolutamente, sì. Io ricordo un giorno un ragazzo che è venuto qua, parla di 2 anni fa, aveva un farfisa, si dice così, pesava 180 kg o 200 kg e l'ha trasportato qua, l'ha messo al centro, l'ha curato come fosse un fratello, l'ha dato via, un bambino, aveva una custodia, una piccola copertina, l'ha levato e ha cominciato a suonare. Ci siamo tutti alzati e per sentire la bellezza di questo suono che ti entrava dentro, una roba incredibile, ti entrava dentro ma proprio ti trasportava. Lemond, cioè queste sonorità che partono dagli anni 60, hanno un certo qualcosa in più. Adesso ci sono le cose moderne, le cose nuove, le cose tecnologiche, ma non hanno anima. Se Lemond ha ancora anima, cosa dici, Marco? Hanno una storia dentro. Hanno una storia adesso dentro. Adesso ti svelo un segreto. Dai, mettiti vicino al microfono e lo svegli meglio. Dai. Anch'io a casa ho un farfisa, però a parte che come sonorità non rientra... Nel vostro genere. Nel vostro genere, però se l'avessi portato stasera... avremmo dovuto lasciare a casa qualcuno. Ho capito. Perché in macchina non ci sta. Non ci sta. Però no, era grandissimo, lo so, però aveva un fascino spaventoso. C'è poco da fare. E lui suonava, erano in due. Uno aveva questo organo meraviglioso e l'altro aveva la batteria elettronica. Una roba, lo so, sembra strano, ma pure avevano una potenza di suono spaventosa. Sì. Qualcuno potrebbe dire, ci sentivano fino al Prato della Valle, qui vicino. È vero, io ricordo questo suono dell'Hammond, mi dava il farfisa, mi davano qualcosa di straordinario. È un accoppiamento un po' curioso. Un po' strano, cioè, curioso. Così curioso, su due piedi sembra strano, poi quindi, sicuramente calzeranno a pennello. Sicuro. Quindi c'era l'Hammond di questo personaggio, bravissimo, che ha dato una colorazione importante al pezzo. Ti racconto questa storia. Visto che lui ha partecipato anche in un altro pezzo che si chiama Let Me, sì, dove c'era un assolo di Hammond da fare. Principalmente l'avevamo chiamato per quello lui. Lui è arrivato lì e ha montato il suo Hammond e stava lì, no? Suonicchiava così. Finché poi a un certo punto gli ha detto: beh, ti facciamo sentire il pezzo, no? Lui non sapeva neanche che genere facessimo, no? Lo conoscevamo così, no? Va bene. Lui si mette lì e ascolta il pezzo. Il pezzo stava finendo, no? La prima volta. A un certo punto mi giro per dirgli: vuoi che ti dico in che tonalità siamo? Mi sono girato, non c'era più, non c'era più. Era già pronto nell'altra sala con le cuffie. Mi fa: rimanda il pezzo. Boom, abbiamo tenuto la prima. Che ha fatto? Ah, perfetto. Sì, era proprio... perfetto. Immediatamente l'ha capito, ah, poi, l'ha recepito immediato. Poi ci siamo presi bene io e Cristiano. Scusa, adesso facci una solo un po' più tamarro. Poi facci una un po' più di purple. Come solo tamarro? Cosa vuol dire? Solo tamarro è dalle nostre parti, è una solo un po' più, non so, borrioso, un po' sì, più aggressivo. Aggressivo, okay. Ecco, tamarro si chiama così. Tamarro, benissimo. E quindi, e poi ci siamo divertiti così a ascoltarlo con mille sfumature, con un effettino, con quell'altro. E poi l'abbiamo preso anche in altre cose, qualche piccola sfumatura, ma in più. Le piccole cose poi diventano le grandi cose, sì, chiaramente. Beh, diciamo, fatte dalle persone giuste, soprattutto. Dimmi, Alex. Diciamo che poi lui lo fa, cioè è il suo mestiere alla fine. Mestiere. Tant'è che quando lui gli ha detto: devo dire il giro di note, il buon Cristiano l'ha guardato e gli ha detto: cosa dici? E questo è un professionista, non gli devi proprio dire, cioè, non gli devi dire niente. Lui va e basta. Lui va, lascialo fare. Come Andy, praticamente. Come Andy, beh, sì, stessa cosa. Andy. Anche Andy non ha chiesto niente, che lui ha fatto tutto, aveva già in mente aveva tutto. Aveva già in mente cosa fare. Anzi, addirittura lui mi ha mandato anche una pre-registrazione fatta da lui. Ci farei questo. Io, sentito, gli ho detto: fai quello che vuoi. Bene. Abbiamo ancora un altro pezzo, Marco, da sentire. Due pezzi abbiamo ancora. Ah, uno solo, uno solo. Ah, numero due, perfetto. Sì, il pezzo numero due. Sentiamo il pezzo numero due e poi siamo quasi alla conclusione. Va bene. Si chiama Lily. Ah, si chiama Lily. Ne parliamo dopo stavolta. Okay. Ok. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Lady, push the button. sta esattamente il nostro stacchetto è rock, il finale di questo pezzo era assolutamente rock, il rock non muore mai, viva il rock, c'è poco da fare, assolutamente, questo è un pezzo, sì, nell'ambito dei 10, però è rocchettaro, c'è poco da fare, poi è un bel finale proponente, si deve muovere, poi Alex grida, non canta, grida, si arrabbia. In modo tempestoso, hai una tempesta di voce. Come mai, Alex, questa decisione di fare un pezzo così gridato, almeno alla fine? È vissuto. Diciamo che, come ti stavo dicendo prima, questo pezzo era già, anche prima dell'album, era già stato inserito, esatto, in una, diciamo, compilation. Questo, sì, una compilation. Una compilation che si chiamava Male d'amore, anche questo praticamente era una compilation, diciamo, concept, dove tutta una serie di gruppi del Piacentino, diciamo, delle nostre parti, doveva portare un pezzo, scrivere un pezzo proprio che parlasse del male d'amore. Male d'amore. Noi avevamo pensato proprio a questa canzone, dove comunque si esprime un sentimento sofferto, una sofferenza, no? Chiaramente. E quindi sicuramente alla fine esce un qualcosa di più, se vuoi, brutale. Sì, no? Brutale, okay. Non cattivo nel non senso, cattivo, ma forte. Esatto. Si sente, fai sentire questo male d'amore praticamente. Benissimo, sono le 23:54 e purtroppo abbiamo finito, abbiamo passato due ore piacevolissime con Alex, Marco e Stefano, e c'è anche il batterista, salutiamo anche il batterista. Matteo salutiamo. Adesso però una cosa dobbiamo dire, dobbiamo ripetere gli appuntamenti dove possiamo trovare il disco, chi ha prodotto il disco e la casa discografica. Ok, allora, il disco è stato prodotto da H. Fruits Record insieme a Cristiano Sanzeri e a noi ovviamente, ringraziamo molto il nostro ufficio stampa, la Flash, e noi potete trovarci e venirci a trovare su Twitter e su Facebook. Su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/weareflowers, separato dai punti. Quindi flowers con l'S finale, cioè fiori. Con l'S finale, esattamente. E su Twitter flowers_it. Benissimo. Le date? Le date questo sabato. Ci troverete all'Arcitown di Fidenza, in provincia di Parma. Sabato prossimo al Via Roma 82. E poi ovviamente aggiorneremo ogni giorno in tempo reale, perché noi siamo una band autogestita nelle date. Nel senso, ok. Cercate voi le siamo date. Noi che lavoriamo per noi stessi. Bene. E quindi risparmiate qui. un pochettino. Abbiamo deciso di lavorare così, assieme alla nostra etichetta. Beh, certo. Ovviamente. E quindi piano piano scriviamo tutte le date, che saranno anche fuori provincia, ovviamente. Ma succede, Alex prima ha parlato una cosa molto bella, cioè i gruppi piacentini che si sono messi assieme per fare un tema per un concetto. Sì. Esiste un accordo anche fra altri gruppi per poter gestire le date fra di voi, oppure no? Beh, ovviamente ci deve essere un po' di solidarietà. C'è da dire che noi con i ragazzi dello studio dove abbiamo registrato, dove registrano altre band bravissime, abbiamo ogni tanto, come questa data di sabato, assieme ai nostri amici di Anzalmi Project, cioè è una cosa organizzata insieme con l'aiuto dello studio e così, e quindi per forza un po' di solidarietà si deve essere. Benissimo, ok, abbiamo finito ragazzi, sono le 23:57 quasi, adesso terminiamo con un pezzo assolutamente per concludere. Ringraziamo Marco Borgato in regia. Domani ci sarà un nuovo appuntamento con il live con Agostino Spolaore dalle ore 21. Con cosa ci salutiamo stasera? Ci salutiamo con Let Me. Grazie a tutti, buonanotte. Someone said it's not too late to change your life and your way. Cause if you wanna know the name, I won't go your way. Walking down, you could rebound on a street that you never found. Cause if you wanna know the way, I won't go my way. So fly away, my only man. It's not a shame if you let me stay. Have you ever seen the rain? Draw my shadow, free my soul from a chain, the way I feel. So fly away. it's not a shame if you let me change. Hold on. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, Rock Wave, l'onda del rock.